Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, gli ascoltatori più affezionati di questa trasmissione ricorderanno che io ogni tanto mi diverto a provocare sulla cucina, sui cuochi, sul food, e dico che si parla sempre di cuochi, si parla sempre di food, si parla di turismo, e qualcuno sostiene che su questo dovrebbe basarsi la crescita dell'Italia, che in realtà è un modello di sviluppo esagerato e sbagliato. Il turismo produce camerieri che rifanno le camere d'albergo, e i cuochi, per uno stellato che c'è, tutti gli altri sono operai che stanno nelle cucine. Questo però non significa prendersela contro il settore, significa che questo non può diventare la chiave di sviluppo dell'Italia, perché noi siamo un paese di industria, siamo il secondo paese manifatturiero in Europa, il settimo al mondo, e quello che genera più valore aggiunto è l'industria e soprattutto la meccanica. Noi dal 1500 siamo un paese di meccanici. Questo è vero e questo lo ribadisco. Però c'è un aspetto che va messo in luce a onor del vero, e cioè il fatto che l'industria alimentare e l'industria della ristorazione, tutto il mondo delle cucine e tutto il mondo del food, muove una parte importantissima di industria meccanica e soprattutto di industria meccanica italiana. Nel mondo del food, tutta la parte di macchinari che raccolgono la frutta e la verdura, oppure provvedono a renderla commestibile, provvedono a inscatolarla, provvedono a impacchettarla, è tutto un mondo di Italia, così come lo è il mondo della produzione di cucine. Ora, nell'elettrodomestico c'è una crisi pazzesca. La produzione di elettrodomestici che si fa in Italia è sempre in calo. L'ultimo dato disponibile dell'Istat, che ha preso come riferimento a 100 il 2010, risale allo scorso giugno, cioè giugno 2016, e se la produzione di elettrodomestici in Italia era pari a 100 nel 2010, nel giugno 2016 era 69,5. C'è un calo drammatico. Una eccezione legata proprio al boom della ristorazione è la produzione di cucine e attrezzature per la ristorazione professionale. Nel mondo c'è un aumento incredibile dei pasti fuori casa e i ristoratori si professionalizzano nelle cucine e ci tengono anche a fare un po' di show, a mostrare quello che avviene in cucina, e se ne avvantaggiano molti produttori italiani. Uno di questi è la Bertos, che è un'azienda di Padova che fa cucine ad alto valore di design e tecnologico, destinate proprio al mondo di alberghi, di ristoranti, di ristorazione collettiva, con una forte diffusione nel mondo, e oggi ne parliamo con il suo amministratore delegato Enrico Bertos. Buongiorno. Buongiorno. Allora, vanno bene le cose per chi fa le cucine professionali, no? È un po' un'eccezione in tutto il settore. Beh, operiamo in un settore in buona crescita e buon sviluppo. Devo dire che con un certo orgoglio esportiamo non la cucina italiana, ma esportiamo le macchine italiane per cucinare in tutto il mondo da ormai un buon numero di anni. Ecco, e quali sono le sfide con cui un'azienda meccanica di questo genere deve confrontarsi? Il nostro settore non ha vissuto molto il fenomeno della delocalizzazione, in quanto l'incidenza della manodopera non è tra i più alti. È un settore molto internazionalizzato, in quanto l'Italia è tra i maggiori produttori mondiali di macchine per la ristorazione. Pensiamo alle macchine per il caffè, per il gelato. Nel nostro caso noi siamo produttori di cucine professionali. E state andando bene, so che il 2016 chiuderà con 23 milioni rispetto ai 22 del 2015. In questo momento stiamo avendo una crescita attorno al 5%, un pochino sotto le aspettative, ma contiamo di recuperare negli anni a venire. Va bene, restate con noi, ora ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità, ci risentiamo tra qualche minuto. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stavamo parlando con Enrico Berto della Berto Cucine del fenomeno dell'industria meccanica italiana che in qualche modo viene trainata dal boom del alimentare, dal boom della ristorazione che c'è nel mondo. Ecco, appunto, che cosa ci dice di questo fenomeno e che cosa comporta? Beh, comporta che nelle città, in questo momento, nelle grandi città, diciamo, i cosiddetti grandi hub mondiali, quali possono essere Shanghai, Dubai, Hong Kong, Milano stessa, la ristorazione sta vivendo una, possiamo chiamarlo una nuova, una new age, nel senso che stanno arrivando cuochi sempre più con esperienze curriculari su grandi ristoranti mondiali che aprono locali di grande richiamo e richiamano anche un tipologia di attrezzature sempre più orientate appunto al design, alla tecnologia, anche più sofisticate rispetto a quelle che si usavano in cucina fino a pochi anni fa. Ecco, e quindi la cucina deve essere anche bella perché la cucina è a vista. Sempre di più questi ristoranti hanno una spettacolarizzazione dell'aspetto della produzione del cibo, alcuni ristoranti offrono anche la possibilità di mangiare direttamente in cucina e quindi la cucina stessa diventa un po' protagonista, diventa qualcosa che non è più solamente un aspetto tecnico per cucinare, ma qualcosa che deve richiamare anche delle forme anche un po', si possono dire, archetipe e quindi lo sforzo di noi costruttori è quello di andare incontro a questo nuovo mercato, anche molto interessante per noi italiani che facciamo del design e del buon gusto uno dei nostri fattori, diciamo, distintivi per la competizione internazionale. Insomma, voi siete un po' un'eccezione. Lo dicevo nella prima parte della trasmissione, in Italia c'è un calo drammatico della produzione di elettrodomestici. L'ultimo dato disponibile, quello del giugno 2016, dell'indice della produzione, dà un indice pari a 69,5. Ora, come viene calcolato l'indice della produzione dell'Istat? Si mette il 2010 come termine di riferimento, fatto 100 il 2010, lo scorso giugno sugli elettrodomestici siamo a 69,5, nello stesso mese del 2015 si era a 76,2, quindi quasi 8 punti percentuali in meno. Nel 2016 praticamente stiamo toccando il fondo per la produzione degli elettrodomestici. A gennaio era 64,1. Invece l'unico settore che tiene, che è legato anche alla produzione professionale di cucine, è quello dei piani di cottura con più 9,6%. Ecco, ma secondo lei perché tutto l'elettrodomestico di uso generale, l'elettrodomestico mainstream in Italia è in calo? L'Italia mi risulta essere stato per tantissimi anni uno dei maggiori player mondiali nel settore della produzione degli elettrodomestici. Oggi soffriamo la competizione di paesi a basso costo della manodopera, in Europa la Polonia, poi la Turchia, adesso anche la Corea è diventato tra i grandi produttori mondiali di questi settori. L'Italia ha giocato un ruolo importante nel passato, oggi forse può mantenere al suo interno soprattutto la parte delle competenze core, che sono quelle del design e della tecnologia, diciamo, interna, quindi la produzione di componentistica. Mi risulta che in Italia ci sono tantissime aziende che fanno la componentistica più sofisticata che dopo va a finire dentro questi prodotti che poi in realtà vengono assemblati in paesi a basso costo della manodopera. Ecco, invece nel caso delle cucine professionali che possono costare anche decine o centinaia di migliaia di euro, non c'è delocalizzazione, quello che conta certamente è la produzione e il design, è la progettazione e il design, ma la produzione deve essere attaccata nella stessa sede perché solo così potete sperimentare, verificare. Infatti voi producete tutto in Italia presso il vostro stabilimento, giusto? Noi siamo un'azienda monostabilimento, ci avvaliamo di bravissimi terzisti alterni per certe lavorazioni molto specifiche, ma abbiamo un processo integrato che ci permette di avere un time to market dalla realizzazione alla produzione del prodotto e anche un controllo della qualità, essendo un prodotto che ancora ha degli aspetti, nobilmente parlando, di tipo artigianale. Ecco, ma invece il tema dell'Industry 4.0, cioè dell'interconnessione dei vari componenti con raccolta dei dati e con trasmissione, in che modo vi tocca? Ci tocca perché la sfida nostra è pur sempre un macchinario che deve essere utilizzato in ambito professionale, quindi se parliamo in certi locali che hanno un pubblico che può essere addirittura, pensiamo a un fast food, pensiamo a un albergo a 5 stelle dove la cucina lavora anche 12-14 ore al giorno. Anche 24, perché nel giro del mondo ci sono un sacco di locali che non chiudono mai. Quindi pensiamo a una macchina che è sottoposta a questi utilizzi molto, molto intensi e che deve, può essere monitorata grazie ad elementi di gestione elettronica e si può fare una previsione di quali possono essere, diciamo, le parti che vanno ad usura e fare quindi manutenzione predittiva e assicurare al cliente una macchina che è sempre funzionante. Ecco, manutenzione predittiva significa che ci sono dei sensori montati sui componenti delle vostre cucine e questi sensori trasmettono dati, quindi anche che voi potete leggere in remoto, quindi anche se il cliente fosse in India voi potete sapere tutto quello che sta avvenendo e come intervenire. Certo, possiamo stabilire col produttore del componente qual è la durata media di vita di quel componente e quindi vedere quando arriva, si avvicina alla fine della sua vita, sostituirlo prima, quindi prima che si rompa. L'altra cosa che può fare l'elettronica, può fare anche un monitoraggio durante l'utilizzo e introdurre degli elementi di risparmio energetico quando si accorge che la macchina non è utilizzata e l'operatore per esempio la lascia accesa. Sono macchine che consumano molto, quindi l'utilizzo di questi dispositivi può ridurre molto i consumi. Certamente. E poi c'è la parte di interconnessione che è fondamentale. Tra l'altro apro una parentesi, pensate che c'è un'azienda che non è concorrente con l'Aberto, perché l'Aberto fa solo la parte di cottura, no? Ovvero di cottura professionale, la Linox, che ha fatto un forno avveniristico che si chiama Naboo. Questo Naboo ha un cloud in cui sono raccolte tutte le informazioni utili per realizzare un piatto, dalle ricette al processo, dal sistema di preparazione al programma di cottura, fino alla presentazione di ogni singolo piatto. In pratica il sistema è sempre connesso al web, quindi permette di accedere a una fonte inesauribile di informazioni, spunti e stimoli in pochi secondi. Ecco, la sfida sono prodotti come questi che poi si devono interconnettere anche se i produttori sono diversi, perché se c'è un forno così nelle cucine professionali dovrà interconnettersi con il resto, no dottor Berto? Assolutamente, sono tecnologie molto interessanti. Pensiamo ad una catena che ha centinaia di ristoranti in giro per il mondo e vuole cambiare un prodotto del suo menù, una ricetta, e con questo sistema può farlo istantaneamente in tutti i suoi ristoranti che ha nel mondo. O lo chef che si sposta da un ristorante ad un altro e si porta con sé tutto il suo bagaglio di esperienze dentro una chiavetta USB o addirittura nel cloud. Ma quindi arriveremo alla cucina professionale che sa che cosa fare perché tu gli infili la chiavetta USB? Beh, nei forni questa tecnologia è praticamente già esistente. Ah, perché ci sono dei forni che fanno delle funzioni diverse, che non sono solo scaldare. No, producono vapore e producono calore e possono essere programmati con dei cicli di cottura a seconda della tipologia di ricetta che si va a realizzare. Ecco, poi un'altra sfida per voi meccanici è l'interazione con le app, perché ad esempio in Corea ci sono le app per ordinare dal telefonino il proprio pasto. Tra l'altro in Corea avevo letto che solo il 7% della popolazione cucina a casa e il 70% usa lo smartphone, perché i coreani sono drogati di lavoro, quindi cucinare è una perdita di tempo, deve essere tutto fatto fuori, consegnato fuori, mangiato subito e magari in piedi nelle pause tra un lavoro e l'altro. Abbiamo la risposta: perché producono più elettrodomestici di noi, allora. Ah, questo è il motivo. Ma voi li temete come concorrenza ai coreani? Ma devo dire che sul mondo della ristorazione il fatto di essere europei, meglio se dico italiani, francesi o spagnoli, gioca ancora per fortuna un ruolo importante. Va bene, io andrei avanti a parlare con lei per ore, però ora dobbiamo chiudere. Salutiamo Enrico Berto. Grazie, saluto tutti, buona domenica. Arrivederci, alla prossima puntata, sabato ore 14.